edizione. Le 6, 14 minuti e 21 secondi, di nuovo buona giornata gentili ascoltatori da Simone Spezia. Diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola, naturalmente in gran parte dedicate a quello che è successo ieri sui mercati e all'allarme del Presidente della Repubblica. Vola lo spread, crollano le borse europee, è il titolo del Sole 24 Ore, il differenziale tra BTP e Bund supera i 370 punti, Draghi, gli acquisti della BCE non sono scontati, questo è il titolo del Sole 24 Ore, che presenta anche un editoriale del direttore Roberto Napoletano, il conto che l'Italia non può pagare, questo il titolo di taglio centrale, il titolo di taglio centrale, il titolo su Napolitano, sul Presidente della Repubblica, in manovra misure più efficaci, questo il titolo, ipotesi aumento IVA e mini contributo di solidarietà, rischio manette per elusione e abuso del diritto è allarme. Naturalmente molte pagine sul Sole 24 Ore dedicate a questo e anche alle novità in manovra, da segnalare anche sul caso Tarantini, la procura di Bari stringe sulle escort, Berlusconi sentito a Palazzo Chigi. Così il Sole 24 Ore. Vi ricordiamo, il Corriere della Sera oggi non è in edicola per lo sciopero della CGIL, come sapete questo tema ha generato qualche polemica, oggi sarà nostro ospite in 24 mattino con Alessandro Milan, il direttore del Corriere della Sera, appunto Ferruccio De Bortoli. La Stampa, borse a picco, tempesta sui BTP, questo è il titolo, e un commento a firma di Stefano Lepri, ora Roma dovrà fare da sola. Altri titoli che troviamo sulla Stampa: la vicenda della P4 per Bisignani e Papa, subito il processo a Napoli, e poi l'indagine invece sulle tangenti Falchi, il PD decide, Penati è sospeso, Bersani il massimo possibile. A centro pagina foto dalla Somalia e titolo Somalia, 750.000 persone rischiano la morte. Repubblica, lunedì di paura, allarme del Colle, editoriale non firmato e quindi presumibilmente del direttore, il paese da salvare, questo il titolo, e poi a centro pagina il titolo su Penati sospeso dal Partito Democratico. Taglio basso, Ghedini sapeva dei soldi illeciti versati da Berlusconi a Tarantini, i PM sentiranno il Cavaliere a Palazzo Chigi, P4 a processo Papa e Bisignani, e poi la storia di un comune del Mantovano, c'è una città a prova di ladro antifurto del sindaco in ogni casa. Il Messaggero, misure più efficaci, il titolo dunque su Napolitano, l'editoriale è firmato da Oscar Giannino, dice la persecuzione giudiziaria contro le imprese, norme su, e parla delle norme su evasione ed elusione, grande foto sul arresto del vandalo di Roma, l'uomo che ha sfregiato le fontane di Trevi e la fontana di Piazza Navona. C'è anche un titolo sulla vicenda della tubercolosi all'ospedale Bambin Gesù di Roma, l'infermiera malata e i bimbi contagiati, tubercolosi, indagati dirigenti del Gemelli, epidemia colposa, scusate, non Bambin Gesù ma Gemelli. E poi notizia curiosa, D'Alema vende Icarus, ossia la sua barca. Una rapida occhiata ai quotidiani stranieri, il Wall Street Journal, sul sito del Wall Street Journal Europe campeggia una foto della contestazione a Piazza Affari, tra poco tra l'altro ci collegheremo con uno degli autonomi, se riusciremo a raggiungerlo naturalmente, che ha passato la notte in tenda là davanti. E poi si riporta l'opinione sul Wall Street Journal di Paolo Romani, ministro dello sviluppo economico, che rassicura. Dal lato del New York Times, foto con le due vittime con gli incendi in Texas, con la vicenda degli incendi in Texas che hanno provocato due vittime. Anche qua ci si sofferma sull'Europa, con un pezzo tra l'analisi e il retroscena, nel quale si racconta come molti, anche tra i massimi vertici dei singoli paesi, siano convinti della necessità di un'Europa federale, senza avere poi il coraggio di dirlo in pubblico. L'FT, il Financial Times, riporta la notizia che ci sarebbe un buco da 380 miliardi nei piani pensionistici delle aziende americane, ma anche che la Libia non sarà pronta a ripristinare le forniture di petrolio prima del 2012, o almeno non completamente. Vi segnaliamo invece dal lato francese che tutti i giornali francesi si occupano della vicenda del processo contro Jacques Chirac, appunto per vicende che riguardano non il periodo da presidente ma da sindaco di Parigi. Il punto qual è? Che Chirac non si è presentato a processo per questioni mediche, all'agnosia, dice la moglie, una malattia che incide sulle funzioni del cervello, ma si fa notare che quest'estate Jacques Chirac è stato visto a Saint-Tropez mentre firmava autografi ai turisti, beveva drink e abbracciava anche signorine. Veniamo al primo tema di giornata, ossia la giornata di ieri sui mercati. Catelli, direttore responsabile di First Online, www.firstonline.info, che è un giornale online che si occupa essenzialmente di finanza, economia e non solo, anche tecnologia e via dicendo. Buongiorno Locatelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. E benvenuto e ben svegliato. Allora, ci sono due questioni, ci sembra di capire. Una generale, perché i mercati non sono andati male solamente in Italia, se si considera che Francoforte ha perso il 5,3%, e una questione che riguarda specificatamente l'Italia, e la dimostrazione ce l'abbiamo invece dal mercato dei titoli di Stato, è così? Sì, è esattamente così. La giornata di ieri sarà ricordata come una delle peggiori, anche se malauguratamente non unica, giornata dei mercati. D'altro lato, gli osservatori più attenti fin dagli ultimi giorni della scorsa settimana avvertivano che c'erano tutti i segnali per un nuovo crollo delle borse, per una ragione molto semplice: i mercati non chiedono la luna, chiedono stabilità finanziaria e crescita. Purtroppo i segnali erano di un crescente timore di peggioramento dell'economia in tutto l'Occidente e erano di un allentamento o di un'incertezza degli interventi relativamente alla necessità di ridurre l'enorme montagna di debito pubblico che investe in primo luogo l'Italia, ma ormai investe tutti i maggiori paesi dell'Occidente. Quindi segnali che sul piano macroeconomico e sul piano della gestione della politica economica erano negativi, non potevano che portare a risultati negativi sui mercati stessi. Io verrei all'Italia a questo punto. Qua, come si dice, c'è un problema specifico, come tra l'altro non ha mancato di notare giusto ieri sera il Presidente della Repubblica, richiamando il governo, la maggioranza, ma anche l'opposizione a migliorare questa manovra. C'è un problema specifico di sfiducia, come ha detto la Presidente di Confindustria Marcegaglia nei giorni scorsi, un problema di credibilità evidentemente. Beh, purtroppo c'è questo problema perché il governo ha dato modo, insomma, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, di manifestare incertezze, dubbi, contraddizioni, un ondeggiamento continuo. Ci svegliamo al mattino e troviamo che la manovra è composta da determinati elementi e alla sera la manovra è già diversa, insomma sembra un po' la tela di Penelope, ma il punto mi pare quello richiamato dal Capo dello Stato ieri sera, come sempre con grande chiarezza e grande efficacia, cioè per uscire dal tunnel servono subito nuove misure che consentano due cose: da un lato appunto di ridurre il deficit e quindi in prospettiva il debito pubblico, ma dall'altro che portino finalmente in primo piano la crescita. Senza crescita non si può ridurre più di tanto il debito, senza crescita un paese incontra inevitabilmente delle difficoltà e viene ovviamente punito dai mercati. Ultima domanda e brevemente, questo sicuramente è un tema centrale, dall'altra parte si dice molto in queste ore il problema alla fin fine sono i tedeschi, perché sono loro che chiedono il rigore a tutti i costi, che il rigore a tutti i costi comporta l'assenza di crescita, il non mancato stimolo all'economia quantomeno. Sì, non è un caso che ieri insieme alla borsa italiana anche la borsa tedesca sia stata quella più penalizzata. Onestamente anche i tedeschi, complici anche gli appuntamenti elettorali, non è ben chiaro che cosa vogliano, non è chiaro se vogliono realmente difendere l'euro oppure no, e quindi pagano questi ondeggiamenti. Però i tedeschi non possono essere un alibi per noi, noi dobbiamo fare la nostra parte, non la stiamo facendo con chiarezza e pienamente, ed è ora che appunto ci rimbocchiamo le maniche e individuiamo degli obiettivi chiari, perché la gente io credo che sia disposta a fare dei sacrifici, ma gli obiettivi devono essere chiari e chi li propone deve essere credibile. Grazie, grazie a Franco Locatelli, direttore responsabile di First Online, lo trovate, il sito è www.firstonline.info, first inteso come first, ossia primo in inglese, e grazie ancora a Locatelli e buona giornata. Grazie a voi. Ritorniamo dunque a questa giornata di sciopero generale, sempre in diretta dalla redazione, Adriana Fracchia. Allora Adriana, sarà una giornata immaginiamo molto pesante soprattutto dal lato dei trasporti. Sì, sarà come dici, soprattutto appunto nel settore dei trasporti oltre che del pubblico impiego, le braccia sono incrociate per 8 ore, le città sono a rischio caos, si fermano i lavoratori aderenti al CGIL di tutti i settori. Per quanto riguarda gli aerei, piloti assistenti di volo e personale di terra, lo ricordiamo, scioperano dalle 10 alle 18, per quanto riguarda i treni lo stop è previsto dalle 9 alle 17. Gli autobus e i metro si fermeranno per 8 ore secondo modalità stabilite localmente, sempre nel rispetto però delle fasce di garanzia. Ricordiamo alcune città principali, a Roma e Napoli lo stop è dalle 9 alle 17, a Milano dalle 18 a fine turno, a Firenze dalle 16 a fine turno, a Palermo dalle 8.30 alle 17.30. Per quanto riguarda navi e traghetti, ritarderanno di 8 ore le partenze, mentre gli autisti di camion si fermeranno per tutta la giornata. Ci saranno disagi anche ai caselli autostradali. Per quanto riguarda il pubblico impiego, incroceranno le braccia oltre 3 milioni di dipendenti tra insegnanti, ospedalieri, ministeriali e dipendenti degli enti locali. In sciopero anche il settore dello spettacolo, con 7 cinematografici chiusi e rappresentazioni teatrali che salteranno. 100 comizi, lo ricordiamo, in tutta Italia per le 100 manifestazioni nelle piazze italiane. A Roma sarà il segretario Susanna Camusso a concludere con un comizio lo sciopero generale. Vedremo dunque che giornata ci attenderà, grazie nel frattempo dalla redazione ad Adriana Fracchia, in una giornata che come si diceva sarà difficile soprattutto dal lato dei trasporti, se considerate che Ryanair ha cancellato 200 voli da e per l'Italia previsti da domani, questo coinvolge circa 35.000 passeggeri. Prima edizione. Le 6:33 minuti precise, è il momento d'Italia in controluce. Ieri abbiamo parlato, vi abbiamo raccontato la base del PD alle prese con il caso Penati. Penati che tra l'altro ieri è stato sospeso dal Partito Democratico. Oggi parliamo della base leghista alle prese con la manovra. Italia in controluce. Buona mattina da Daniele Biacchesi, il programma di Radio 24 che indaga sulla cronaca, sulla politica, sul costume e sullo spettacolo italiano. Restare o abbandonare il governo? Questa domanda corre da alcuni mesi sulle bocche dei militanti della Lega, quelli che preparano le mille feste sparse nel nord del paese, sempre pronti a vendere il quotidiano di partito, la Padania, ai gazebo oppure nel lavoro, casa per casa. Corre voce che l'esito della manovra economica abbia scontentato una parte della base leghista. Abbiamo cercato di capire se le cose stanno così e Barbara D'Amico ha raccolto le loro testimonianze. Sicuramente il militante non è, quando non si parla di federalismo ma si parla di tasse, non è contento e lo possiamo capire. No, al di là del rumore di fondo io credo che si stia tenendo la rotta, però ammetto che se uno deve leggere i giornali questo ultimo mese sicuramente la comunicazione non è stata il meglio che potevamo fare. E io penso di essere in questo momento più, diciamo così, dalla parte della nuova generazione, dei Zaia, che però hanno forse un po' la colpa di guardare dove amministrano loro e non guardare comunque quelle che sono le linee del partito, che sono eterne, sono sempre quelle. Le abbiamo quasi raggiunte, non mi sembra il caso di rompere adesso. Ecco, pensioni da 400-600 euro non possono essere toccate, insomma, ecco. No, secondo il mio punto di vista si è perso un po', si è perso di mira l'obiettivo. Le cose non si possono fare dall'oggi al domani, è un percorso lungo e tortuoso che però va avviato secondo me anche cercando una collaborazione generale all'interno del paese. Non possiamo sempre tutti contro tutti, uno dice una cosa e ne dice un'altra, bisogna fare un discorso, un percorso che affronti la situazione così come è costruita, bisogna avviare un sistema di revisioni del paese. Qui invece mi sembra si stia facendo esattamente il contrario. Il senso che vedo io, anche magari di alcune perplessità che hanno alcuni militanti storici nostri, è che magari si può confondere un compromesso con un calarsi le braghe. Non penso che sia questa la situazione, anche perché Bossi nella sua storia l'ha sempre dimostrato. Lo dice una persona che è iscritta alla Lega Nord quando ha 18 anni e ha piena fiducia nel nostro segretario e nei nostri vertici. Sì, l'idea con cui si era partiti diversi anni fa era ben diversa, stiamo parlando di Lega di lotta e non di governo, ha capito? Però adesso siamo abbastanza, non dico confusi la base, ma un po' disorientata, perché ovviamente tutti i giorni se ne sente una in un modo, il giorno dopo è a rovescio. Purtroppo i tempi sono molto ristretti, bisogna fare tutto molto in fretta. Questa la cosa ci lascia un po' anche questa abbastanza perplessi, perché insomma secondo me bisognava avere un attimino più sotto controllo gli eventi. Italia in controluce, prima edizione, torniamo oggi 13:30 a Radio 24. Sei 36 minuti e 40 secondi, mentre Tokyo in questo momento perde circa l'1,37%, noi ci spostiamo a Piazza Affari e non per parlare di mercato ma fisicamente. Gianfranco Bignamini, buongiorno, è con noi? Buongiorno, sono con voi. Allora, responsabile sanità dell'Unione Sindacale di Base, la chiamiamo perché questa notte ha dormito in tenda là davanti, che è un fatto oggettivamente abbastanza curioso. Ci spiega come mai? Oggi, ieri ha iniziato una battaglia in tutte le piazze d'Italia. Abbiamo scelto Piazza Affari perché riteniamo che la politica e gli affari sono quelli che oggi mordono gli operai, i pensionati, i cittadini, i lavoratori. Siamo qui per dare una risposta, abbiamo occupato la borsa e abbiamo lanciato questa protesta con le tende insieme a gruppi di ragazzi, a centri sociali che hanno aderito alla nostra iniziativa, dopo aver occupato la borsa, aver costretto quella della borsa di accettare anche i nostri volantini e le nostre proposte, abbiamo dormito qua. Oggi partiremo con uno sciopero generale perché è ora di finire, che solo la CGIL sta iniziando uno sciopero. USB ha indetto da prima lo sciopero di 24 centrale, partiremo da Rocchiroli e arriveremo a Piazza Affari. Noi oggi porteremo qui più di 10.000 persone in Piazza Affari perché vogliamo fare capire a questi signori della borsa che non possono giocare con i soldi dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati. Non arriviamo più alla terza settimana, non ne possiamo più, e questa protesta partirà ancora un'altra volta dal 10 di settembre. A Roma si incontreranno tutte le forze sociali, antagonisti, i sindacati di base, per lanciare una presenza in tutte le piazze Bignamini, d'Italia. Bignamini, ci sembra chiarissimo, poi magari le facciamo un'altra domanda. Io intanto saluto Luca Bagato, che è trader specialista sui mercati obbligazionari, amministratore unico di Macro Markets SRL, che è un ufficio di studi e analisi finanziari indipendenti. Buongiorno Bagato. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, naturalmente con lei parleremo di mercati perché, Bignamini, per carità, con tutto il rispetto, ha un bel parlare, però la borsa esiste e sta facendo quello che sta facendo. Però intanto le chiedo, da rappresentante di quel mondo contro il quale Bignamini protesta, un commento? Ma innanzitutto non è un gioco, la borsa viene spesso scambiata per un gioco, chiaramente può diventarlo nei casi in cui una persona non abbia una esatta, forse un esatto modo di approcciare il rischio, è un rischio che in qualche modo deve essere sempre un po' calcolato. Chiaramente nei momenti di forza nessuno si lamenta mai di quanto la borsa poi sale, di quanta ricchezza può creare, e nei momenti di debolezza chiaramente che diventa per tutti un gioco. In realtà le oscillazioni nel tempo purtroppo ci sono, questo è un momento molto difficile anche non solo per noi ma per tutta Europa e penso anche per tutto il mondo a livello internazionale. L'assorbimento del rischio che si è creato dopo il fallimento di Lehman è una cosa che richiede mesi se non anni, per cui è purtroppo un mestiere difficile quello sia del trader che del gestore del rischio, ma è qualcosa che non ha certamente a che fare con il gioco, non è una roulette, ecco. Sentita la risposta, Bignamini? Sì, a me sembra assai sensata, no, francamente. No, ma non è tanto, non voglio rispondere. Io voglio solo dire che le ultime finanziarie e il padrone, il capitale, la borsa stanno non giocando, ma stanno manovrando miliardi alle spalle e sui pesi dei lavoratori. Io voglio solo capire come fa un lavoratore con 40 anni di servizio a 1.100 euro al mese poter vivere, e quando qui si buttano via dei soldi per una crisi che hanno fatto le banche, i capitali, i padroni, e pagano i cittadini. Vediamo l'ultima finanziaria, quella di luglio e quella di agosto, tutto il peso cade sui lavoratori, sui cittadini, sui pensionati. Certamente questi signori che hanno lo yacht, che hanno stipendi da 5-6 mila euro, la crisi la sentono meno. Io prendo 1.050 euro al mese dopo 40 anni e c'è una famiglia, ditemi come posso andare avanti. Grazie Gianfranco Bignamini. Mi scusi, un'ultima cosa, ma sì, oggi alla fine a che ora partite, da dove, che giro fate? Noi partiamo da Largo Cairoli alle 9.30 e alla fine arriveremo ancora a Piazza Affari facendo un giro interno di Milano che stiamo ancora concordando con le autorità competenti, però arriveremo a Piazza Affari perché noi vogliamo da qui. E poi le dico il 15 ci sarà per tutta la stiamo perdendo, però il perché protestate proprio a Piazza Affari ce l'ha detto abbastanza chiaramente. Grazie a Bignamini. Adesso torniamo a, insomma, non smettiamo di parlare di questioni tipo plutocrazia, complotti e cose di questo genere. Restiamo con Luca Bagato, trader specialista sui mercati obbligazionari, come dicevamo, amministratore unico di Macro Markets SRL, ufficio studi analisi finanziarie indipendenti. Allora Bagato, io ho subito una domanda. Alle 6 del mattino nel giornale radio abbiamo fatto sentire un commento del corrispondente del Sole di Radio Cori, il Sole 24 Ore da Bruxelles, che diceva la Merkel in un incontro riservato nei giorni scorsi con esponenti del suo partito, del suo governo e simili, ha esplicitamente accomunato Grecia e Italia. Non ci dica che anche nelle sale operative è così, per favore. Se ce lo deve dire, ce lo dica, insomma. No, allora, il discorso è un discorso un pochino più complesso. Purtroppo va fatto un distinguo, che quando l'economia, abbiamo visto purtroppo varie fasi di questo approccio dopo appunto la crisi di Lehman, quando l'economia in qualche modo chiede aiuto alla politica monetaria, quello che è avvenuto con i grandi tagli dei tassi da parte della Banca Centrale fino al 2008, e poi con questo approccio molto non ortodosso dell'easing quantitativo, quindi poi magari se abbiamo tempo spieghiamo un attimo, fatto in realtà a partire dalla primavera del 2009, quando appunto l'economia chiede aiuto alla politica monetaria, la politica monetaria in qualche modo non è soddisfacente, purtroppo la storia ci ricorda, ma questo è qualcosa che è già avvenuto ciclicamente, chiede aiuto politici. I politici in realtà non sempre l'economia hanno una grande cognizione, quindi purtroppo bisogna capire che esiste un periodo in qualche modo, come lo chiamiamo, di grey market, in cui i politici tentano di capire quello che devono fare, e in questo loro muoversi crea a volte grande confusione, perché purtroppo, contrariamente a un banchiere centrale, un politico esterna continuamente e non esterna magari solo da un'unica fonte, per cui all'insieme delle cose e magari anche a mercati aperti. Allora sono le 6.43, anzi le 6.44 esatte in questo momento, abbiamo uno spazio per la viabilità e la riprendiamo immediatamente dopo. Prima edizione. Sono le 6.46. e 2 secondi per essere esatti. Ancora con Luca Bagato, trader, specialista di mercati obbligazionari. Vorrei rimanere con lei però sull'Italia, ci ha fatto un discorso molto generale, vorrei rimanere con lei sull'Italia perché questo spread a 371 punti, lo ricordiamo sempre, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi che fanno da riferimento, e quindi teoricamente più aumenta il rendimento dei titoli di Stato italiani più è alto il rischio paese. Ci spieghi, Bagato, a cosa lo dobbiamo attribuire? Una carenza di politica? Vede rischi particolari il mercato su di noi? Allora, anche per concludere la domanda che giustamente lei mi ha fatto precedentemente, innanzitutto bisogna considerare una cosa, che la speculazione, quella che viene sempre in qualche modo citata come la fonte principale dei problemi di un, per quanto riguarda il rischio paese, la speculazione più delle volte vede bene, nel senso che è sempre un po' maligna, quando si è maligna a volte si vede anche un po' nel giusto, e attiva un processo. In questo caso il processo è partito già con le prime fasi del rischio Grecia, ha lasciato in qualche modo l'Italia un pochino al di fuori di questo problema, quindi parlo di tutto il processo 2010, poi all'inizio 2011 ha cominciato a muovere un po' di più l'Italia da Spagna. Nelle sale trading ovviamente ci sarebbe voglia di vedere l'Italia come la Grecia, perché chiaramente questo creerebbe un enorme possibilità di profitti. In realtà l'Italia è molto diversa appunto dalla Grecia, i problemi che riguardano l'Italia sono legati all'ammontare del debito pubblico. In questo momento chiaramente il mondo ha dovuto in qualche modo supplire all'economia appunto monetaria e finanziare pesantemente un deficit di bilancio che è aumentato, e questo deficit è servito per in qualche modo, tra virgolette, tirar fuori i paesi dalla crisi. Chiaramente i paesi in questo momento si trovano a dover emettere più titoli al netto di quanto vengono rimborsati, e l'Italia in particolar modo a settembre dovrà mettere all'incirca 15 miliardi di emissioni nette in più di quanto viene rimborsato, sono quelli più presi di mira in qualche modo dalla speculazione. Quindi in realtà il nostro problema è più un problema legato all'approccio ai mercati che non un problema strutturale. Ci sembra chiarissimo. Grazie a Luca Bagato, trader specialista sui mercati obbligazionari, amministratore unico di Macro Market SRL, ufficio studi e analisi finanziarie indipendenti. E ora parliamo di sport. Sport e politica. Dario Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Il Giro della Padania, dunque. Eh sì, è quello che farà discutere, il giro delle polemiche, il giro del caroccio, che detto così fa inevitabilmente un po' sorridere, perché adesso la Padania, con tutto il bene che si può volere alla Padania, senti è una costruzione. Peter Pescapè dall'altra parte del vetro ci supporta. Ma lui è alpino e quindi certo ha un'affezione particolare per il Nord Italia. Dunque grandi polemiche. Sì, grandi polemiche, perché parte oggi questo Giro della Padania fortissimamente voluto da Umberto Bossi, e il Giro della Padania, come dice la parola, coinvolge così 6 regioni del nord, perché parte dal Cuneese, da Paesana, si chiama così la località, arriva alla Iguaglia oggi, e poi 5 tappe in 6 regioni, 176 comuni, una caravana ben di 800 persone. La cosa curiosa è questa, che non so, tanto per cominciare ci sarà il campione italiano Visconti, che è un siciliano. Se vincesse, non è, è difficile che vinca una corsa come questa, però se vincesse un siciliano il Giro della Padania già farebbe sorridere un po'. E c'è Ivan Basso, che ha vinto 2 volte il Giro d'Italia, per cui no, la cosa che fa sorridere è anche questa, che a corse come il Giro del Veneto, il Giro del Lazio sono state sospese per questioni economiche, non ci sono. Mentre invece il Giro della Padania, ma la Padania è un'entità astratta, il Veneto no, invece esiste. Esiste quindi, davvero. Ecco, questa è un po'. Grazie. La questione che farà discutere. Che farà discutere anche nei prossimi giorni. Grazie a Dario Ceccarelli, siamo al momento delle anticipazioni della rassegna stampa. Alessandro Milan, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Dunque? E dunque, che dire? Beh, le borse sono a picco, no? Le avete appena detto. C'è anche del Giro della Padania. Gramellini in prima pagina della stampa dice: ho sognato dopo una peperonata pesantissima al Giro della Padania. d'altronde cose che capitano. No, ovviamente si parla di manovra, si parla di delle borse a picco. Ci sono due quotidiani che non sono in edicola, sono il Corriere della Sera e anche l'Unità per lo sciopero della CGIL. Ieri abbiamo parlato della vicenda Corriere della Sera. Abbiamo già detto che più tardi avrai Ferruccio De Bortoli ospite. Direttore del Corriere della Sera, sì, alle 8:30. Cose da segnalare dai giornali? Ma da segnalare, a parte le cose molto serie, ovviamente, ti voglio fare una domanda, non il giorno, ma almeno il mese in cui sei nato, così ti faccio una domanda al giorno. Marzo. A marzo. A marzo, chi è nato nel segno dei pesci, no? Sì. Giusto? Persone di grande fantasia e creatività, diventerai probabilmente, no, l'idraulico a luglio, no, quindi non diventerai idraulico, oppure c'è anche il serial killer, nascono a settembre in genere i serial killer. Dici di cosa marzo, si tratta. A marzo non si sa, è una ricerca inglese di quelle che veramente vi fanno sorridere in base ai mesi in cui si nasce, non c'entra i segni zodiacali, ma si fa una determinata professione, questo... come percentuale, come statistica. Gli idraulici nascono soprattutto a luglio. Bene. A marzo quindi... non lo so, non l'ho trovata, è forse il cantante. No, mio figlio è nato in luglio, quindi buono. Ha una professione assicurata. Ha una professione assicurata, magari esentasse. Le 6:52 minuti e 6 secondi, grazie anche ad Alessandro Milan, grazie a Peter Bescapè in regia, Alessandro Longoni in redazione. Noi ci sentiamo dopo il Gazzettino del Risorgimento con il giornale radio delle 7:00.